Aqui a tribo seria distribuída e escolhida com sucesso e para o modo ao primo militar gênito e nevogênito e se tradiveram e cuidam barco bruto e ruente de que se caissiunte. Quella sera, dopo averci sconvolto con le rivelazioni sulla sul nocipì e sul tradimento di Enrico, Folegari aggiunse ancora due cose. Una riguardava il paleofono, l'altra le istruzioni che aveva ricevuto per noi. Al momento l'apparecchio era sicuro in possesso del nocipì, tuttavia il nucleo desiderava che fosse perfezionato e messo alla prova in un esperimento decisivo. Volevano insomma essere certi che funzionasse, perciò intendevano restituircelo e consentirci di concludere la fase empirica. Ovviamente da quel momento saremmo entrati in un programma di protezione speciale e saremmo stati affiancati da una scorta in borghese. Io e Francesca ci guardammo, ma Matteo ci precedette e domandò per primo. E poi? Cosa ne sarebbe stato del paleofono una volta conclusa la ricerca? Quali erano in definitiva le intenzioni del nocipì? In realtà conoscevamo le risposte, semplicemente volevamo dare sfogo alla rabbia che riprendeva a montare dentro di noi. L'ermetico tacque, ma almeno non mentì. Non sono autorizzato a trasmettervi queste informazioni, tagliò corto. E lì ci infuriammo, perché ricominciava a fare lo 007, ma fu tutto inutile e in definitiva dovemmo arrenderci. Quando poi ci domandò come intendessimo proseguire le ricerche, Francesca e io condividemmo la nostra scoperta in merito alla statua di Pompeo, lasciando tutti a bocca aperta. Gli altri non ne sapevano ancora nulla e accolsero la novità con sincero entusiasmo. Fu Francesca a quel punto a prendere la parola. Disse che, poiché la situazione si era fatta indiscutibilmente pericolosa, nessuno doveva sentirsi obbligato a proseguire. Anzi, sarebbe stata più che comprensibile la decisione di abbandonare la partita. Eppure nessuno si tirò indietro. Dopo 2 anni, 1 e mezzo per me, il paleofono era divenuto parte di tutti noi e rinunciare ora era assolutamente impensabile. In più, oltre che a noi stessi, lo dovevamo a Corvero e alla sua memoria. Dovevamo portare a termine l'opera a cui lui aveva dato inizio. Quando lasciammo il ristorante era ormai notte e, come avevamo concordato, salimmo in auto e seguimmo Folegari per raggiungere la sistemazione che il nocipì aveva pensato provvisoriamente per noi. Neppure adesso sento di poterne rivelare l'ubicazione. E così il nostro ermetico, del quale avevamo sempre diffidato, in realtà era stato il nostro angelo custode, proteggendoci discretamente da un manipolo di persone pronte a tutto pur di impossessarsi del paleofono. Da quella sera lo guardammo tutti con occhi diversi. Più difficile fu cambiare opinione su Enrico e accettare l'idea che fosse un mercenario che ci avesse traditi per denaro. Un nemico che si rivela amico è una gioia inaspettata. Un amico che diventa nemico è un trauma. Quell'ultima volta non fui io, come in precedenza, a negoziare le condizioni del nostro accesso al reperto che intendevamo sottoporre ad analisi paleofonica, ma se ne occupò direttamente il nocipì. Del resto il luogo in questione non era un museo qualunque, ma niente meno che Palazzo Spada a Roma, la sede del Consiglio di Stato. E i frutti si videro. Non solo il palazzo fu tutto per noi, ma l'intero personale di sorveglianza e custodia fu sostituito da agenti scelti. Perplessità e diffidenze a parte su quelle che erano le effettive mire del nocipì, e ovviamente accantonati anche i seri rischi che quella misura implicava e ricordava, la cosa suscitò in più occasioni l'ilarità della squadra. Non capita a tutti di godere della protezione di una simile scorta. Non eravamo che semplici scienziati, ed un tratto venivamo catapultati in una situazione degna dei peggiori pentiti di mafia. Il grandioso Pompeo Magno di Palazzo Spada fu rinvenuto nel 1552 nei pressi della casa di Pompeo, al confine di 2 residenze romane. Le 2 famiglie che se ne contendevano la proprietà decisero di appellarsi al cardinale Girolamo Capodiferro, il quale a sua volta sottopose la questione a Papa Giulio III. Questi la comprò, quindi la regalò al cardinale. Ci installammo a Palazzo Spada nel febbraio del 2008. Francesca aveva ragione. Quando vidi per la prima volta la statua, la sua somiglianza con quella ritratta nel dipinto di Camuccini mi lasciò sbalordito. Entrambe, infatti, ostentano il globo nella mano sinistra e poggiano con il fianco destro su una semicolonna. Tuttavia c'è anche una differenza evidente. Nel quadro il braccio destro di Pompeo è adagiato lungo il fianco, in una posizione molto simile a quella della scultura di Villa Arconati. Quella di Palazzo Spada, invece, protende il braccio verso l'alto in un saluto romano. Discutendone fra noi, ipotizzammo che Camuccini, avendo visto entrambe le statue e conoscendo la duplice rivendicazione, nella sua tela le avesse fuse in un capriccio d'artista, ossia in un'unica figura compendiaria. Eppure alla base della sua scelta poteva anche esserci una banale considerazione di natura spaziale. In definitiva non potevamo formulare che illazioni, poiché non c'era alcun modo di ricostruire l'intenzione dell'autore. O forse sì. In ogni caso restava sempre intatta la possibilità che il particolare della statua di Pompeo, ai cui piedi Cesare sarebbe morto, fosse puramente leggendario. Bastarono pochi giorni di rilevamenti per scoprire la verità, sia sulla scultura che sul paleofono. Fu il momento più grande di tutta la nostra vita, e per qualcuno di noi fu anche l'ultimo. Kai Sundegan.